ed ascoltatrici di Radio Onda Rossa, e niente, io intanto ricordo l'appuntamento che è per domani pomeriggio alle 3, alle 15 a Piazza Mazzini ad Albano, concentramento per la nuova manifestazione contro il progetto di discarica, contro il progetto di inceneritore e l'ampliamento della discarica. La discarica di Roncigliano, dove insomma dovrebbe sorgere l'inceneritore. La manifestazione è stata indetta per ribadire il no del territorio a questo progetto, alla luce pure del nuovo scenario che si è delineato dopo la sentenza del Consiglio di Stato. A marzo il Consiglio di Stato ha sbloccato il progetto dal punto di vista impiantistico, non ha però concesso all'azienda, al consorzio proponente, i soldi pubblici necessari per cominciare il cantiere, e quindi insomma sono ormai passati 7 mesi da marzo e il cantiere dell'inceneritore non è mai partito, proprio perché senza fondi pubblici questo tipo di impianti non funziona, non vengono costruiti, non funzionano e nessuno si addossa gli oneri di una impresa che è a tutti gli effetti antieconomica. Purtroppo insomma il sistema di corruttele di potere, che invece è molto forte, che sostiene le aziende del gruppo Cerroni, e che oggi abbiamo visto una prima, c'è stato insomma, si è svelato una prima facciata, questo sistema d'aziende non ha nessuna intenzione di addossarsi il carico economico per costruire una cosa che funziona solamente grazie alla contribuzione pubblica e quindi insomma alle tasse che paghiamo noi. Una vera e propria truffa, quella dello smaltimento dei rifiuti in generale, truffa che dall'inchiesta che è spuntata su tutti i giornali oggi, in particolare sull'Espresso, è una truffa anche molto variegata che colpisce, diciamo che tocca vari ambiti, dalla produzione del CDR, come è nel caso di Albano Laziale, agli interventi per costruire discariche, preparare discariche senza permessi. Insomma, si capisce dagli articoli e dall'inchiesta che i filoni sono tre, sono la gestione di Malagrotta, la costruzione della discarica di Monti dell'Ortaccio e il funzionamento degli impianti di CDR presenti dentro la discarica d'Albano. In particolare sulla questione della truffa del CDR noi ne sappiamo parecchio, perché insomma abbiamo fatto notare alla procura di Velletri, che poi ha trasmesso gli atti alla procura di Roma, che quello che stava succedendo nel nostro bacino con sto CDR. Ricordiamo insomma che il CDR è il combustibile da rifiuti che viene prodotto e bruciato dentro gli inceneritori, e in particolare quello lì veniva prodotto e bruciato dentro l'inceneritore di Colleferro. Però in realtà insomma, da quello che si era capito già parecchi anni fa, perché gli esposti sono del 2010, questo CDR non veniva prodotto, o se veniva prodotto non veniva portato all'inceneritore di Colleferro, ma veniva stoccato dentro la discarica. Però purtroppo i comuni pagavano lo smaltimento molto di più, come se fosse stato conferito dentro l'inceneritore. Quindi insomma oltre il danno anche la beffa, cioè si predilige un tipo di smaltimento molto nocivo che è anche più costoso, e poi magari non si mette nemmeno all'opera, però insomma l'incasso arriva comunque. Purtroppo sui giornali insomma si lascia intendere che i comuni sono stati truffati, insomma questa operazione va avanti da parecchi anni e logicamente ci pare strano che dentro le amministrazioni comunali, in particolare dentro quella d'Albano, nessuno sapesse niente di queste sovraffatturazioni. In particolare l'ex sindaco di Albano, che poi nel frattempo è diventato pure assessore all'ambiente della regione, che non si fosse mai accorto di questa strana operazione, insomma ci pare molto improbabile. Anche perché ce ne siamo accorti noi, non si capisce come non poteva farlo anche, questa cosa non era venuta agli occhi delle istituzioni comunali. Però fatto sta che oggi, insomma, è uscita la notizia che questo calderone si è scoperchiato e quindi, insomma, è partita una ricca inchiesta, sono coinvolte praticamente tutte i funzionari più importanti della regione nel settore, funzionari che noi avevamo già denunciato sia pubblicamente che attraverso la magistratura come pesantemente coinvolti in operazioni poco chiare. E quindi è evidente che, insomma, probabilmente portare avanti il doppio binario, sia di un attacco, comunque con costante pressione dal punto di vista della magistratura e quello delle mobilitazioni sul lunghissimo periodo, perché insomma sono passati parecchi anni, qualche problema a questi signori che cercano, insomma, di arraffare più soldi possibili gliel'ha creato. Però logicamente stiamo parlando dell'inizio di un'inchiesta che, insomma, non si saprà bene quando si andrà ad esaurire e che, insomma, che risultati porterà. Sicuramente a noi porta il risultato del fatto di aver fatto rendere pubblico un meccanismo che è criminale e che per le popolazioni che vivono intorno alle discariche è anche assassino, perché, insomma, fatalogie dei residenti della zona di Roncigliano, della zona di Malagrotta, della zona di Colleferro, insomma, ormai è davanti agli occhi di tutti che, insomma, in quei posti si vive e si muore molto di più. Quindi per ora, insomma, cerchiamo, insomma, di avere più informazioni possibili su questa inchiesta e di come potrà influire sul futuro dello smaltimento dei rifiuti nella regione. Insomma, pare anche evidente che probabilmente la partita è regionale, è evidente sotto gli occhi di tutti, quello che si muove in un angolo della nostra regione su questo argomento ha ricadute poi su tutto il resto dell'impiantistica che si deve muovere sull'argomento e deve entrare in funzione. Non ci sono territori isolati che possono anche dal punto di vista delle mobilitazioni, insomma, riuscire a far da sé nel contrapporsi a questo tipo di operazioni. Io, insomma, questo è un po' il quadro generale della situazione. Logicamente questa inchiesta ha fatto grosso scalpore perché, insomma, si è andata a toccare in maniera pesante gli interessi di questo personaggio. Tu prima dicevi cosa si muove e perché, insomma, anche una testata come l'Espresso, che, insomma, è vicino al centro-sinistra, fa uscire un dossier su un personaggio che è a sua volta legato al centro-sinistra. E noi, insomma, un'idea non ce la siamo ancora ben fatta sull'argomento, però, insomma, nella manifestazione di domani abbiamo anche l'intenzione di denunciare le molte ombre che in questi mesi si stanno addensando proprio su questa regione e la piccola cambiamento di rotta rispetto allo smaltimento dei rifiuti che si prevede di mettere in atto, e stiamo parlando, insomma, della campagna, perché, insomma, a noi ci pare che la provincia di Roma ne sta facendo una vera e propria campagna, una campagna acquisti sugli impianti a biogas e a biomassa. Ci stanno parecchie decine di progetti sul tavolo in tutta la provincia di Roma per costruire questi impianti che per ora dovrebbero trattare solo l'umido, che però in realtà invece del recupero di materie e quindi della creazione di un compost per l'agricoltura, alla fine produrranno un bel rifiuto speciale da andare a stoccare in discariche speciali con sovraccosti, visto che i rifiuti speciali costano molto di più lo stoccaggio. E quindi non so se questa dinamica ha in qualche modo svincolato il centro-sinistra agli interessi di Maglio Cerroni, ci pare molto strano visto che la partita e le quantità in gioco sono notevolmente più, insomma, inferiori rispetto al monte totale dei rifiuti prodotti, però è evidente che c'è anche questo problema sul piatto e nei prossimi mesi, se questi progetti andranno a porto, il dibattito, magari, e le mobilitazioni si concentreranno anche su questo tipo di aspetti. Senti, capo, in questo contesto poi, cioè, possiamo dire che siamo già ampiamente in campagna elettorale, qui addirittura si voterà da qui ai prossimi mesi per il governo nazionale, per quello regionale, per quello provinciale e poi per quello della città di Roma, che insomma che è la vera responsabile delle poi discariche che stanno in giro anche fuori dal comune di Roma. E in questo contesto, quali possono essere le difficoltà o quali magari insomma le cose di cui approfittare per il movimento contro i rifiuti di Albano e più in generale per tutti i movimenti similari che sono nati in questi ultimi anni nella regione? Qui, insomma, purtroppo abbiamo assistito anche negli anni passati a grosse, magari, prese di posizione pubbliche su contro quel progetto, a favore di quell'altra soluzione, e poi nei fatti ben poco è stato messo in pratica. Sicuramente nel periodo delle elezioni, per chi volesse, insomma, rendere ancora più forte queste contraddizioni, è il periodo propizio, perché in quel momento, insomma, a quale cordata industriale appartieni, insomma, rende evidente a quali interessi ti dovrai sottomettere. E quindi i comitati avrebbero, insomma, un gioco molto più facile per denunciare, insomma, questo sistema politico che, insomma, spalleggia il sistema economico che, insomma, c'è sullo smaltimento dei rifiuti. Invece, insomma, purtroppo magari si cercherà, magari tenteranno di utilizzare i movimenti contro i rifiuti per, insomma, scopi elettoralistici. Insomma, questo è il rischio che questo tipo di movimenti sempre ha in corso, nel corso della loro storia, e probabilmente, insomma, cioè, fortunatamente in questa fase, forse un passettino in più di coscienza da questo punto di vista, questi movimenti l'hanno già fatto, però, insomma, anche dei casi già emblematici già sono saltati, si sono già verificati sul comitato di Corcolle. Uno dei massimi responsabili, insomma, uno dei nobili proprietari delle tenute intorno al sito di Corcolle, uno dei siti di qualche mese fa, sito per il post Malagrotta, insomma, ha già dichiarato che preparerà la sua lista civica alle elezioni comunali. E quindi, insomma, da un nobile ci si può aspettare questo e altro, insomma, no, non ce ne stupiamo, però, insomma, svendere questo patrimonio di opposizione popolare insomma, alla grande lobby dello smaltimento dei rifiuti, che invece tante sofferenze ha prodotto, sarà sicuramente l'impegno da parte dei comitati che esistono e stanno operando in questo momento, di impedire una deriva di questo genere, perché, insomma, è evidente che le responsabilità sono ampiamente bipartisan, proprio ampiamente, e anzi pare proprio che, insomma, tra governo regionale, comunale, opposizioni regionali e comunali vada per la maggiore il fatto di non acciaccarsi i piedi più di tanto, e vediamo, insomma, chi la svanga. Quindi sarà molto complesso, insomma, il periodo delle elezioni, sia per la quantità proprio delle tornate elettorali, e proprio pure per la situazione che si sta vivendo. Lo smaltimento dei rifiuti, insomma, è un grosso bacino clientelare, e porta parecchi soldini per le campagne elettorali. E quindi non tutti saranno in grado di rinunciarvi, se proprio vogliamo essere buoni. Eh beh, sì, anche perché poi diciamo la questione è pure che nel corso dei mesi passati gran parte dei vertici politici regionali, comunali e provinciali hanno avuto buon gioco spesso e volentieri a dire beh, ma la colpa di di quanto succede nell'ambito dei rifiuti non è nostra, c'è un governo tecnico che in qualche modo sta lì per qualche mese, noi ci dissociamo da tutto. Adesso, insomma, nei prossimi mesi invece ci sarà comunque una ripresa di responsabilità anche ufficiale, per cui insomma si gioca molto. Ma credo che abbonderanno le dichiarazioni pro raccolta differenziata in tutte le salse possibili immaginabili. Poi in realtà cosa si andrà a fare con sta cavolo di raccolta differenziata è il grande mistero che bisognerà invece sviscerare, perché insomma nei piani del centrosinistra che carta, plastica, cartone e derivati del legno devono diventare CDR per finire dentro inceneritori è un dato di fatto. Cioè combustibile per inceneritori. Esattamente. Quindi noi facciamo la raccolta differenziata per insomma mettere a disposizione questi materiali agli impianti di incenerimento. Insomma, una logica veramente perversa per chi invece magari fa la raccolta differenziata nella speranza di procurare un beneficio al proprio territorio. E quindi insomma su questo argomento ci sarà molto da litigare sicuramente, perché insomma le sparate e le dichiarazioni pro raccolta differenziata saranno all'ordine del giorno, come lo sono state anche in passato, ma forse in questo momento ancora di più. E quindi cercare insomma di fare sicuramente chiarezza e opposizione. Poi per quanto riguarda l'altra parte del rifiuto, cioè l'umido, cioè tutta questa vicenda degli impianti a biogas e biomassa che da poco si sta cominciando ad affrontare e da, insomma sono partite iniziative di sia di mobilitazione in alcuni casi, in alcuni territori, sia di informazione, ma insomma è evidente che per quella frazione del rifiuto la prospettiva è quella appunto del recupero energetico degli impianti che bruciano i gas prodotti dalla fermentazione e producono energia elettrica. Il grave problema è che alla fine di questa operazione, di questa operazione che è anaerobica, te non ti ritrovi più l'umido sotto forma di compost, di terriccio, ma ti ritrovi un rifiuto speciale. E insomma questa qui è un'altra bella truffa che bisognerà cercare di impedire, perché poi ci ritroveremo con la necessità di un numero sempre maggiore di discariche speciali per questo tipo di rifiuti, che poi non vuoi o non vuoi potrebbero tranquillamente insomma finire nelle discariche ordinarie già presenti, peggiorando insomma la condizione ambientale che magari i siti già si vivono adesso, perché insomma uno può invece del rifiuto solido urbano tritovagliato, nemmeno stabilizzato, perché insomma stiamo a parlare di fandonie quando qui parlano di stabilizzare il rifiuto, invece di solo il tritovagliato arriverebbe anche sto compost post fermentazione, che insomma ha altri problemi alle falde acquifere, all'aria che si respira e quindi alla vita delle persone nei territori intorno alle discariche. Quindi la situazione è parecchio complessa e sarà sicuramente oggetto di discussioni, iniziative nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, anche perché insomma gli eventi, come abbiamo visto pure oggi, ci scavalleranno in qualche misura nei prossimi mesi, sicuramente dopo le elezioni. Però insomma la soddisfazione e la mobilitazione ad Albano rimane forte, cerca di rimanere sul punto contro questo tipo di impianti, e quindi insomma rinnovo a tutti quanti l'appuntamento di domani pomeriggio alle 3 di pomeriggio per concentramento, il corteo che parte da Piazza Mazzini e arriva a Piazza di Corte ad Ariccia.